24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Eccoci alle 6.33 in punto, è venerdì, ultimo giorno della settimana per 24 mattino, con la nostra Miriam Lucchetti in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè e il nostro presidente del Consiglio che, nonostante il monito di Giorgio Napolitano, ci regala sempre le sue parole. But please relax. E allora, but please relax, siamo pronti con la nostra serranda che si alza sempre, il nostro bar, la nostra bella Nicole. Il caffè volentieri a tutti quanti. Caffè volentieri a tutti quanti, con il ritorno di Mario Adinolfi, che saluto, deputato del Partito Democratico. Buongiorno, allora, buongiorno. Chi vincerà domenica? Non vincerà nessuno perché andremo al ballottaggio domenica prossima, quella successiva. Ah, secondo me il Milan invece. Vabbè. Ah, ecco, state messi un po' meglio. No, ovviamente mi riferisco parlo allo Juventino Adinolfi, insomma, che vabbè, fate piano domenica sera, fate no, piano. Sarà una cosa tranquilla, avevo un bel pareggio a reti inviolate. Ma magari. Saluto, è il momento dei Mario, oltre a Mario Adinolfi, oltre a Super Mario, ovviamente, il grande Mario Monti. Saluto Mario Giordano, direttore del TG Com 24. Buongiorno. Non dimentichiamo Mario Draghi, insomma. Mario Draghi, sì. Mario Balotelli. Poi ci sono un po' appannato in questo momento. Ci sono un po' tutti. Io allora vorrei chiedervi questa cosa. Sentiamo le parole di Giorgio Napolitano, perché Napolitano ha detto una cosa anche abbastanza ovvia. Paginate sui giornali per esercitarsi su cosa voglia dire la questione Mario Monti, non Mario Monti. Napolitano che dice Monti non è candidabile perché si vota per il Parlamento e quindi lui sta già in Parlamento, senatore a vita. Sentiamo Napolitano. Innanzitutto il senatore a vita Monti, come si sa, non si può candidare al Parlamento perché è già parlamentare. Questo non è un particolare da poco, qualche volta lo si dimentica. Quindi non può essere candidato di nessun partito e non può essere comunque in quanto persona candidato al Parlamento. Ecco, questa cosa che tecnicamente è ovvia oggi è Mario Giordano, un direttore, da direttore di giornale come avresti trattato questa vicenda? Perché oggi c'è l'esegesi con paginate e paginate di queste parole del capo dello Stato. Beh, è evidente che sotto nel retrobottega della politica si parla molto di quelli che dovranno essere gli assetti e quindi per le prossime elezioni, dunque, le parole di Napolitano vengono interpretate non tanto per quello che, come dici tu, è l'ovvia banalità di tante esternazioni del Quirinale, ma per quello che lasciano intendere, cioè è evidente che c'è un tentativo di fare di Monti il federatore di un'area di, diciamo così, moderata in contrapposizione a quella della sinistra di Bersani. Quindi abbiamo avuto l'altro giorno, due giorni fa, l'intervento di Bersani che cercava di stoppare questa manovra. Le parole di Napolitano sono state inevitabilmente lette in questo modo. Che per vendere i giornali, visto che si vendono di politica, l'avrei montata su molto anch'io, inevitabilmente. Sì, non lo so, però adesso ci si esercita su Monti sì, Monti no. Mario Adinolfi, perché Bersani, visto che parliamo del tuo Partito Democratico, ha detto e ha ribadito, gli consiglio di stare fuori dal mischione, in pratica, no? Perché è l'unico che lo può battere. Ai. Adinolfi, è così? È assolutamente vero, insomma, Giordano ha ragione, insomma, Bersani sa che alle prossime elezioni va contro, se dovesse vincere prima di domenica, una destra ormai in rotta, un'area moderata che si riaggrega ma non si capisce come al centro, Montezemolo, Casini, insomma ci sono delle condizioni di grande confusione. Ovviamente, come insegna il grande Mao, quando la confusione c'era confusione, la situazione vale a dire che è eccellente, quindi Bersani applica questa massima e preferisce la confusione. È un'idea di un Monti federatore e aggregatore di un'area moderata. Francamente io trovo difficile che possa accadere, e credo che in realtà Napolitano volesse tutelare il ruolo di Monti per un'eventuale condizione sì. di assenza di un vincitore alle prossime elezioni, più che cioè il problema è, secondo me Napolitano dice, se ci giochiamo la carta Monti in questa maniera poi se succede che puta casa le elezioni non vince nessuno, non possiamo più chiamarlo, chi lo fa il, certo, certo, bisogna tenerlo in ghiacciaia, sì, però anche qui c'è da discutere. Giordano, va bene tutto così, cioè è democrazia, cioè lo teniamo in ghiacciaia, è l'uomo pronto che se nessuno vince, trac, eccolo lì, c'è Monti che non prende un voto perché tanto già sta al Senato, e sì, come quando uno fa un po' un piatto che è venuto particolarmente bene, lo mette poi in freezer e lo tiene lì pronto quando e lo fa a dosi e ogni giorno se ne mangia un po'. Adesso, no? Ho visto in una sera, non so più se è il Tempo o quale giornale, che titola proprio, no, il Napolitano congela Monti, ecco, è un po' così di, sì, diciamo, non bruciamolo, teniamolo lì. Che... certo, l'altro punto è, insomma, il rilievo sempre più importante che Napolitano sta giocando in questa partita politica. Di fatto, diciamo, con tutte le forme, i crismi, per l'amor del cielo, però le modifiche forti alla Costituzione sostanziale sono rilevanti, perché questi interventi, come dici tu, a prima vista sono assolutamente, come dire, dicono delle assolute banalità. In realtà c'è un retropensiero, esatto, però comunque domenica è il giorno delle primarie, allora gira su YouTube una parodia dell'elettore tipico, un po' una ironia, una presa in giro ma molto simpatica di quelli che sono gli elettori di Bersani, Renzi, Vendola. Sentiamone un pezzettino, sta girando molto su YouTube. L'elettore di Bersani è quello che converte sempre l'euro in lira. 4 euro. 8.000 lire. L'elettore di Bersani è quello che ha Vodafone, ma si ostina a chiamarla Omnitel. Pronto? Quando guida, ascolta Isoradio anche in città, tiene il volante alle 10.10 e fa mettere la cintura anche a quelli dietro. L'elettore di Renzi è quello che quando va in vacanza parte con i preservativi. È quello che legge Fabio Volo, guarda Fabio Volo e se non fosse candidato Renzi voterebbe Fabio Volo. L'elettore di Renzi è quello che alla pizzata con gli amici ordina lo spaghetto allo scoglio. L'elettore di Vendola è quello che non fa vedere al figlio i cartoni su Medici. Degli ebrei, Europa. È quello che in edicola chiede ancora liberazione. Liberazione non lo fanno più da 2 anni. L'elettore di Vendola è quello che al posto dei videogiochi regala al figlio una confezione di regoli. E non gli fa leggere Signore degli Anelli perché è un libro di destra. Peter Gomez, Marco Travaglio, regime. Eccoci qua, il terzo segreto di satira. Questo lo trovate così su YouTube. Allora, Maria Dinolfi, al di là delle ironie, è un momento importante. Non vincerà nessuno, secondo te, al primo turno? Non credo ci sarà una vittoria al primo turno di nessuno. Sarà un testa a testa, sarà molto interessante seguirlo. Penso che gli italiani si sono appassionati. Penso che è il modo migliore per far capire che c'è una politica anche bella, chiara, di scontro, perché viva Dio, insomma, ci si confronta su piattaforme politiche diverse. Credo sia un bel antidoto alla cosiddetta antipolitica. Spero ci siano milioni di persone che vanno a scegliere il candidato premier, che non mi sembra una cosa brutta di questi tempi. No, no, anzi. Soprattutto visto come stanno di là al centrodestra. No, ma al di là, spero che anche quelle del centrodestra siano molto partecipate. Insomma, se noi riusciamo a far riappassionare gli italiani alla politica, operazione complicatissima oggettivamente data la condizione in cui ci troviamo, tra poco immagino che partiranno le solite telefonatine che ricevi tu qui in trasmissione. Ce n'è uno anche per te, uno che fa una domanda per te nella nostra segreteria. Evidentemente, insomma, mi pare chiaro che non è il momento migliore per far appassionare la politica, però se succede vuol dire che abbiamo fatto qualcosa. No, vabbè, ma tu dici, cioè, Mario Giordano, sentito Mario Dinolfi, cioè, spera che anche nel centrodestra siano partecipate, ma si stanno a scannare nel centrodestra, ma che partecipate? Cioè, c'è Stracquadagno oggi al Corriere della Sera, ha detto Berlusconi ormai mi fa pena, è un uomo che mi fa pena, chiuso nel... Ma Stracquadagno, uno che fino a 3 mesi fa, non so, lo adorava, fino a 6 mesi fa, un anno fa, era il berlusconiano di ferro, l'avrebbe difeso anche davanti, non so, ai leoni, al Colosseo. Giordano, la così... Isabella Bertolini. Si sono ribellati... Vabbè, questo fa un po' parte quando si sfascia una cosa, i primi a scappare sono poi proprio quelli più deboli, forse, quelli che fanno meno anche strumenti per fare da solo e quindi si liberano. Io le primarie, già io non credo, non ho mai creduto molto, con tutto, ripeto, il rispetto e l'attenzione con cui meritano di essere seguite, seguiremo anche noi, abbiamo seguito fino adesso e seguiremo e continueremo a seguire le primarie del centro-sinistra. Io non credo molto allo strumento delle primarie, non credo assolutamente che quelle del centro-destra possano, in 20 giorni si possa fare alcunché di serio, mi sembra una cosa molto posticcia, una cosa molto di seguire la moda, sì. E credo che anche per recuperare, diciamo, il senso di antipolitica, ripeto, con tutto il rispetto del dibattito vero e serio che ha fatto il PD e dello scontro vero e serio che c'è stato nel PD, il recupero dell'antipolitica lo si fa se si presenta con dimezzando il numero dei parlamentari, riducendo, abolendo i vitalizi dei parlamentari, almeno di quelli che ne prendono due, eccetera, eccetera. No, nomini una cosa, no, interrompo perché sennò mi bruci la sorpresa, perché ieri Mario Giordano su Libero diceva proprio questo: aboliamo almeno i vitalizi a chi ne prende due. Teniamo un attimo di suspense, perché noi, direttore, abbiamo chiamato uno di quelli che tu ieri hai citato, Alfredo Vito, e l'abbiamo registrato e ha da dire, ha da fare una considerazione su questo. I forconi sono molto vicini, però quello che intanto bisogna fare è non togliere i vitalizi, ma stabilire un tetto che sia al massimo di 10.000 euro dal Presidente della Repubblica in giù, altro che togliere indennità, vitalizi o pensioni. Alessandro, buongiorno, sono Pietro. Volevo lasciare un messaggio all'onorevole Adinolfi sulla questione dei vitalizi. La domanda è: essendo scandalizzato sulla legge, perché lui l'ha approvata dando il suo voto positivo? Mancano 30 giorni alla fine del mondo, moriremo tutti, pure uno si salverà. Chi è costui? È il professor Monti, perché farà pagare le tasse e l'IMU agli unici rimasti vivi. Ma basta con queste povere da Fornero. Cos'è questa persecuzione? Uno stato di istigazione al suicidio? Vadano a contestare sotto le finestre di quelli che ti hanno ridotto in questo modo. Anche voi, basta! Ma noi contro la Fornero non abbiamo niente a dire il vero. Detto questo, prima di ascoltare Alfredo Vito, Adinolfi, hai sentito che l'ascoltatore, non so, si riferisce forse alla questione i vitalizi, quell'inghippo che è successo, il decreto. L'ascoltatore però ha preso un granchio, perché becca l'unico parlamentare che il vitalizio non lo prende, che sono io, perché sì. Hanno approvato la legge che li cancellava. Ma l'unico, l'ultimo inghippo, quello che li salva, i consiglieri regionali di cui ci siamo occupati. Io gli ho detto qui da voi che ci fosse un problema sulla retroattività, che poteva evidentemente essere approvata, insomma, con chiarezza. Alcuni dicono che non si possa approvare tendenzialmente la legge retroattiva. Se poi mi dite che la cosa è stata fatta probabilmente da alcuni che volevano salvaguardarsi e l'inghippo, come appunto è stata definita, era nascosta nelle pieghe della legge, dopo che l'ha approvato qualcuno, hanno sbagliato. Detto questo, mentre tu parlavi, non lo so, non c'entra nessuna associazione, ma su Sky stanno facendo vedere il gol di Muntari che non ci avete dato l'anno scorso. Stavo alle 6:48, stavo svenendo. Va bene, no, allora, come si dice, vincere non è importante, è l'unica cosa che conta. Infatti, allora, Mario Giordano ieri scriveva sul Libero questo: togliamo almeno i vitalizi a chi ne prende due, ex consiglieri regionali, ex deputati. Uno di questi è Alfredo Vito. Direttore, senti, l'abbiamo chiamato, la nostra Elisabetta Fusconi l'ha chiamato, gli ha chiesto conto di questa cosa, cosa dice? Non capisco, è una cosa normalissima. In Italia ci sono migliaia, milioni di persone che prendono due pensioni, diciamo. Il direttore Giordano fa una proposta: coloro che beneficiano di un doppio vitalizio, perché non rinunciano a uno dei due? Ah, che proposta intelligente, molto bene. Signora, ma non mi faccia ridere, sì, per cortesia. Che non rinunci a lui, diciamo, alla sua pensione che prenderà da direttore di giornale e a tutti gli altri emolumenti. I direttori dei giornali, prima di occuparsi delle pensioni degli altri, dicano: noi abbiamo titolo per poterci occupare delle pensioni perché noi guadagniamo tanto, e se guadagnano assai dicono loro a quanto hanno rinunciato. Con questo moralismo stiamo arrivando a grillo, cara signora, in questo paese. Eccolo qui, e poi dopo ha anche messo giù quando un po' si sta... Arriviamo a grillo, Mario Giordano. Siamo già arrivati a grillo, no? Ma c'è una differenza sostanziale, che chi lavora versa i contributi e soprattutto chi è iniziato poi a lavorare dal 94 in poi col sistema contributivo prenderà esattamente ciò che ha versato, no? Invece sì, i vitalizi, come dice la parola stessa, non sono pensioni, cioè è vero che ai parlamentari veniva effettuata una trattenuta, ma una trattenuta così leggera che non è assolutamente proporzionale, tanto è vero che ogni anno per anni i contribuenti italiani hanno dovuto versare dei soldi per pagare questi vitalizi che non sono ripagati dai contributi, si dava la pensione, l'abbiamo ricordato mille volte, addirittura che stava in Parlamento un solo giorno e quindi non può aver versato contributi per prendere la pensione per il resto della sua vita, e questo è lo scandalo, sì. Quindi se già prendere un vitalizio, uno di vita ne ha due, come fa ad avere due vitalizi? Cioè, Era bella la risata nel Fedo Vito, ah che bella proposta intelligente, è come dire c'ho due vitalizi, ah ne rinuncio a uno, bravo, bella proposta. Io credo che nel momento in cui si ha il coraggio di andare a chiedere agli italiani col ricongiungimento oneroso di pagare fino a 100.000-200.000 euro per prendere una pensione con contributi versati solo perché si è cambiato lavoro dal pubblico al privato, ebbene io credo che un ricongiungimento oneroso con la realtà a chi, a chi prende due vitalizi sia il minimo indispensabile. Ah è vero che a Libero, io ho detto noi non abbiamo niente con la Fornero, invece voi con la Fornero la state un po' perseguitando, è come le Iene siete. Non risponde. Ho capito, e non risponde. Non è obbligata a rispondere. Come non è obbligata a rispondere? Il ministro è obbligato a rispondere a una domanda di... Uno è obbligato a rispondere, non è che posso fare come professore universitario, non rispondo. Se uno accetta di fare il politico, fa il ministro, deve rispondere, deve dare una risposta. Deve non si può negare, io chiudere dentro, non do le risposte. Che modo è? Non so, ad Inolfi è un po' perseguitata Fornero, oppure... Buona Elsa, ma insomma non le vogliono molto bene, dico, neanche nel mio partito, insomma, quella la massacra. Io dico che è una che insomma, ha avuto coraggio, tra l'altro ha fatto la riforma delle pensioni proprio, ed è un passaggio molto importante. Devo dire, le cose che dice Mario Giordano sono sempre molto ficcanti, io considero la sua battaglia sul tema pensionistico in generale, sulle pensioni d'oro, qualcosa di molto importante, ha scritto libri su questo che io ho sempre pubblicizzato, perché sono fissato con l'idea che il sistema previdenziale italiano, essendo estremamente punitivo nei confronti dei 29 milioni di italiani nati dopo il 1970, debba essere profondamente riformato, un po' l'ha fatto la Fornero, un po' spero lo facciamo anche noi se andremo al governo dopo le prossime elezioni. Detto questo, però diciamolo, che adesso i parlamentari vitalizi non lo prendono più, cioè da adesso in poi. Sì, questo è vero, è stata cambiata. Le battaglie di Mario Giordano hanno avuto un effetto, di tanti italiani, devo dire la verità, hanno avuto un effetto che il Parlamento ha sancito, per cui i parlamentari, da quando è stata approvata l'ultima norma, votano, si pagano con il contributivo. Una pensione. Cioè, Maria Di Nolfi praticamente sta dicendo: hanno aspettato me. No, porca miseria, dovevano cambiare le regole, non potevano aspettare ancora 5 anni. Fatto bene. Però adesso, diciamo che adesso non con un giorno non prendi il vitalizio, no, con i parlamentari della Repubblica Italiana. Da adesso in poi, questo è vero, devo dire. No, dico perché è un effetto positivo. No, ma è vero. Civili che fanno tanti come Mario Giordano. È vero. Direttore, noi alle 8:15 avremo anche Elio Veltri per parlare un po', uno quello che tra l'altro ha fatto anche quasi morire politicamente Di Pietro, no? Con questa inchiesta, anche lui prende due vitalizi, però anche lui ha detto: io voglio sapere quanto guadagna Giordano, non lo so perché sono fissati con questa cosa, no? Ma è la risposta che aveva, la prima a dirla fu la Mussolini in un dibattito, pure normalmente è questa, ma ribadisco il concetto, ha ragione Adinolfi quando dice che la battaglia è una battaglia per un sistema ingiusto del passato nei confronti del presente, quindi chi continua, per questa la mia provocazione su quelli che prendono due vitalizi, che continuano a prendere due vitalizi, sì. Secondo me non c'è nessun diritto acquisito, cioè non può essere considerato un diritto quello di prendere due vitalizi, che in alcuni casi, penso al caso di Giovanni Russo Spena eccetera, si somma ad una pensione normale versata con i contributi, che ne prende tre. Perché se uno lavora, si versa i contributi, fantastico, si prende la sua pensione. Il vitalizio per molti di loro è un in più, Allora, due vitalizi mi sembra sinceramente un po' tanto. Due vite, fanno due vite. Se il signor Elio Velti, per la sua attività di privata, di scrivere libri, guadagna miliardi all'anno, io beato sono lui. Felice per lui, beato certo, lui, certo. Io non è che abbia no, conto, ma infatti, la ricchezza. Un conto è un contratto con un privato, un conto è lo Stato che paga due vitalizi. Io vi devo salutare, vi ringrazio. Mario Giordano, direttore di TGCom 24, quando vuoi noi siamo sempre qui. Mario Adinolfi, che ti do una notizia, Pato è infortunato, salta il big match Milan-Juventus. Tremate. Volete dire la vostra? 02-4652-4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02-4652-4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. È venerdì 23 novembre, i titoli intanto, il Sole 24 Ore si concentra sulla legge di stabilità. IRAP, detrazioni, esodati, tutte le novità per imprese e famiglie, questo è il titolo di apertura. Poi la politica per molti quotidiani. Le parole di Napolitano su Monti. Monti non è candidabile, così titola il Corriere della Sera. Repubblica, Monti non si può candidare. La Stampa, Napolitano stoppa la lista Monti. Il Manifesto, primario, e c'è la foto di Mario Monti. I giornali, lo dico subito, l'anticipo, poi leggeremo, la vedono in modo, in alcuni casi, proprio diversa questa uscita di Napolitano, cioè con sviluppi opposti. Ma la vedremo più avanti. Libero, i politici tutti evasori, hanno fatto il test, il redditest con gli stipendi dei politici, e Libero dice sono risultati alcuni politici con i quali abbiamo fatto il redditest incongrui. Il Fatto Quotidiano e Pubblico si dedicano a questa vicenda di un ragazzo di 15 anni che si è suicidato perché pare tra le motivazioni ci fosse anche il fatto che era preso in giro perché gay. Suicida 15 anni quando la rete uccide, questo è il titolo del Fatto Quotidiano, e l'omofobia uccide, questo è il titolo di Pubblico. Per il Giornale, il PDL farà le primarie, Berlusconi, siete folli. L'Unità invece intervista Vendola, il nuovo è a sinistra. Il Messaggero, l'assalto antisemita degli ultra, questa è l'apertura. Mentre Avvenire, violenza di piazza, c'è allarme rosso. Domani c'è la manifestazione e tra l'altro il ministro Cancellieri propone gli arresti in differita. Dopo vedremo anche una sua intervista oggi alla Stampa. Prima però storie di persone, alcune famose, alcune no. Umberto Bossi. Il Giornale scrive a pagina 13, andrà a Medjugorje. L'8 dicembre Bossi pellegrino a Medjugorje. Questo è il titolo con la storia di Paolo Bracalini, dal paganesimo alla fede cattolica. Pare proprio che l'ex leader della Lega stia facendo un percorso di conversione alla fede. Dal Dio Po a Medjugorje, il crepuscolo di Umberto Bossi assume un risvolto religioso, scrive Paolo Bracalini sul Giornale a pagina 13. L'avvicinamento alla fede per l'ex barbaro di Gemonio è iniziato da tempo. Ed ecco la notizia, l'8 dicembre Bossi sarà lì in Bosnia Erzegovina, dove è apparsa la Madonna, a Medjugorje, per l'appunto giorno dell'Immacolata. Andrà insieme alla moglie, a pochi altri che gli sono vicini. Il Giornale fa subito sapere che non ci sarà il figlio Renzo Bossi, il Trota. Chi lo frequenta parla di un uomo solo, profondamente depresso, che senza voce nella Lega, suo unico interesse da 30 anni a questa parte, cerca punti di riferimento altrove. D'altronde già di recente si era manifestato un avvicinamento alla religione, per esempio quando venne il Papa a Bresso e comparve in prima fila un inedito Bossi in giacca e cravatta in ascolto del Papa. Tanto che il Giornale si chiede: ma la Lega è cattolica o pagana? Beh, una delle questioni che hanno seguito la tortuosa traiettoria della parabola di Bossi: l'inizio è puro paganesimo, Calderoli che si sposa con rito celtico, Bossi che chiama il figlio col nome pagano di Eridano Sirio, attacca la chiesa avvistando un esercito di Franceschiello schierato contro il nord, con a capo l'ineguagliabile caporal D'Alema, seguono i vescovoni di Santa Romana Chiesa con paramenti tricolori, queste dichiarazioni di Bossi di qualche anno fa. E poi però un percorso che ora, scrive il Giornale, sotto la dicitura la nuova vita del senatore lo porta fino al pellegrinaggio a Medjugorje. Storie di persone meno famose. Dal secolo XIX a pagina 9, troppe tasse, ora basta, lascio tutto all'ospizio. è successo a Treviso, dove un ex meccanico ha donato 6 alloggi accumulati durante la sua vita per un valore di 1.300.000 euro. Ma è singolare la motivazione, più che l'altruismo poté il fisco, scrive Il Secolo. Già, perché dietro il gesto munifico di donare tutti i suoi averi ci sarebbe esclusivamente lo sfinimento, la stanchezza di dover combattere con tasse di ogni genere, l'esasperazione di dover stare sempre più attento a non commettere errori, con l'IMU, piuttosto che con altri balzelli con i quali fanno fatica a raccapezzarsi perfino i commercialisti. Allora, detto fatto, Bruno Fornasier, ex meccanico in pensione, ha donato tutto all'ospizio di Treviso. Garanzia per lui? Si è garantito un posto finché avrà vita, comprando pure un loculo, già che c'erano degli avanzi evidentemente. Beh, ci mancherebbe, con 6 appartamenti, 6 alloggi, 1.300.000 euro, ci manca anche che non ci scappi dentro un loculo. Così, giusto per non aver pensieri neppure nel transito per l'aldilà, il giorno più lontano possibile, ovvio, e si sa. Ma questo signore, 78 anni, single, senza figli, non ci ha pensato troppo su. Forse un po' ha ragionato, ma poi ha detto: troppe tasse, non ce la faccio. E allora mi libero di questi alloggi, ha donato tutto all'ospizio di Treviso. E ha un posto a vita garantito, se volesse all'ospizio, e un posto per l'eternità al cimitero con il loculo. Storie sempre di persone. Alessandro Sallusti sul Giornale oggi scrive: nel giorno in cui è stata proclamato dal sindacato per lunedì uno sciopero dei giornalisti, quindi, cari ascoltatori, rassegnatevi, lunedì non saremo in onda. Si sono rubati il giornale, eccolo qua, il Giornale, prima pagina. Alessandro Sallusti scrive: caro procuratore, no a scorciatoie e attese da tortura. Il direttore del Giornale, che deve scontare 14 mesi di carcere, ma non, c'è chi dice non andrà in carcere mai, neanche se bussa a San Vittore tutti i giorni, non si capisce bene come finirà questa vicenda, scrive: oggi a mezzanotte scade la sospensione dell'ordine di carcerazione emesso nei miei confronti. Inutile ricordare che la cosa ha soltanto due precedenti, Guareschi e Iannuzzi. La politica ha avuto 2 mesi di tempo per rimediare a questa barbarie, non lo ha fatto. E allora non c'è via d'uscita, devo andare in carcere, è questione di ore. L'ordine lo deve firmare la Procura di Milano, il cui capo è Bruti Liberati. Mi dicono che lui non è entusiasta di rimanere col cerino in mano, a far eseguire una condanna scritta da altri che sporcherebbe il suo prestigioso curriculum. Procuratore, almeno lei non mi deluda, scrive il direttore del Giornale. Ha il dovere di applicare la legge, glielo dico, glielo chiedo, perché lei non ha il diritto di infliggermi ulteriori pene rispetto a quella erogata. Che sia prolungata l'attesa o che si tratti di farmi entrare in una cassa alla quale non voglio appartenere, non si inventi balle o scuse. Io e gli italiani, signor procuratore, ci aspettiamo che lei faccia fino in fondo il suo lavoro senza guardare in faccia nessuno, si prenda la responsabilità che le compete, come io mi son prese le mie. Se poi per caso si dovesse vergognare, sono affari suoi e non miei. Non mi rovini più di quanto abbiano già fatto suoi indegni colleghi. Mi creda, non me lo merito. Insomma, Alessandro Sallusti dice: caro procuratore Bruti Liberati, firmi questo ordine, a mezzanotte scade la sospensione dell'esecuzione della pena, mi mandi in carcere. Non si è mai visto una persona che con tanta protervia cerchi il carcere come Alessandro Sallusti, direttore del Giornale. Come finirà? Stay tuned, come si direbbe in America. E ieri il capo dello Stato Giorgio Napolitano, che era a Parigi, ha incontrato Valéry Giscard d'Estaing e poi ai giornalisti ha detto questa frase su Monti, che ha suscitato poi il dibattito politico che oggi si sviluppa sui giornali. Che cosa ha detto Giorgio Napolitano? Ha detto: Monti non è candidabile, nel senso che è già senatore a vita. Alle prossime elezioni politiche si vota per rinnovare il Parlamento, e se uno è senatore a vita non ha bisogno di essere candidato da nessuno, già è lì in Senato, e dunque un senatore a vita, come si sa, non si può candidare al Parlamento perché è già parlamentare. Questo non è un particolare di poco conto, ma qualche volta lo si dimentica, ha detto il capo dello Stato. Quindi non può essere candidato da nessun partito. Certo, poi Napolitano ha aggiunto quello che poi succederà dopo di lui non si può sapere. Comunque, insomma, come a dire, è una dichiarazione che tecnicamente è ineccepibile, che però ha suscitato molte interpretazioni che trovate oggi sui giornali. Ci sono interpretazioni anche ben diverse. Per esempio, due che ne ho trovate contrapposte nella loro lettura. Norma Rangeri, direttore del Manifesto, oggi scrive in prima pagina la lista del Colle. Il titolo di prima pagina è Primario, con la foto di Mario Monti. E quindi, secondo il Manifesto, le parole di Napolitano vogliono dire così: un professore è per sempre. Napolitano boccia le liste Monti, ma chiede al Premier di aspettare il reincarico senza buttarsi nella mischia. Scrive Norma Rangeri: il Presidente della Repubblica dice quel che tutti già sanno. Mario Monti è un senatore a vita, dunque non può essere eletto perché è un parlamentare. Tuttavia, ripeterlo e poi dettagliare fin nei minimi particolari quando e come potrebbe essere coinvolto dopo il voto per un Monti bis, non è certo un omaggio a Monsieur La Palisse, anche se è da Parigi che il capo dello Stato invia in Italia il suo avviso ai naviganti. Così evidente è la roadmap tracciata da Napolitano per coronare con successo il traguardo, così puntuale la spiegazione dei tempi, delle procedure per indicare il candidato preferito per Palazzo Chigi, non imbrigliando in una lista, che non occorre lavorare di fantasia per ricavarne una linea coerente del Quirinale. Dunque, per il Manifesto, è un'investitura vera e propria, cioè Mario Monti dice sì, è vero, no alle liste, scusate, Napolitano dice no alle liste Monti, ma teniamolo, come dire, come si può dire, senza essere irriverenti, in ghiacciaia, pronto per il dopo. L'interpretazione opposta invece è data da Fabio Martini sulla Stampa, pagina 3, e vale a dire questa uscita di Giorgio Napolitano è stata accolta con silenzio diplomatico e irritazione da parte di Mario Monti. E così almeno scrive la Stampa. Quell'esternazione così affilata del capo dello Stato Mario Monti non se l'aspettava proprio. Tanto è vero che due giorni fa, riferendosi alla nomination ricevuta sabato scorso dalla convention Montezemolo-Riccardi, il Premier si era chiesto chissà come l'ha presa il Presidente, e Giorgio Napolitano non l'ha presa bene, secondo la Stampa. E Mario Monti ha potuto apprenderlo in diretta alle 13.30 all'aula di Montecitorio mentre si discuteva di legge di stabilità. L'esternazione del capo dello Stato si era conclusa pochi minuti prima e via telefonino Monti è stato informato. Come dire, neanche l'ha avvisato di questa esternazione, e dunque con irritazione ha reagito Mario Monti, che ha risposto nel modo più diplomatico possibile, col silenzio. Dunque, per la Stampa invece, questa uscita di Napolitano è stata accolta male da Mario Monti. Sta di fatto che per il Corriere l'alto là del Quirinale agita i partiti. Il più agitato sarebbe Pier Ferdinando Casini, colui che si spende di più per continuare con Mario Monti e l'agenda Monti, e anche la figura Mario Monti Premier, scrive Monica Guerzoni a pagina 5 del Corriere della Sera. Pier Ferdinando Casini affida poi a Facebook in serata una dichiarazione cauta nei toni ma determinata nel contenuto: noi presenteremo una lista che si richiamerà espressamente al lavoro politico del governo Monti, saranno gli elettori a giudicarne l'indice di gradimento. Un modo abbastanza esplicito, scrive il Corriere, per dire che i centristi dell'UDC non intendono rinunciare al brand Monti, che ormai è diventato un marchio. Allora, cari ascoltatori, ci si interroga su questo. Se davvero possa essere il marchio Mario Monti. Secondo il retroscena anche di Claudio Tito su Repubblica, il professore, la sfida tra i poteri, rifletterò sull'avviso del Colle. Questa sarebbe stata la dichiarazione, la reazione di Mario Monti alle parole di Giorgio Napolitano. Anche la formula sintetica del Monti dopo Monti adesso prevede più attori, scrive Claudio Tito, ognuno dei quali assegna il ruolo che dovrà assumere l'attuale Presidente del Consiglio nella prossima legislatura una caratura diversa. Tra l'altro scrive sempre Claudio Tito che questo endorsement di Casini, Riccardi, Montezemolo con Mario Monti non piacerebbe alla CEI, ai vescovi, a Bagnasco. Il presidente della CEI, l'ex presidente Camillo Ruini, stanno operando sotto traccia per far fallire il progetto Riccardi, Montezemolo e il probabile patto con il PD. Questo scrive Repubblica. Quelli, è stato il giudizio tranchant di un autorevole esponente di quella cerchia, non rappresentano i cattolici. Come la mettono, ad esempio, coi valori non negoziabili? Come fanno a stare con il PD? Non ne parliamo poi di Vendola, un attacco che fa riaffiorare le divisioni dentro la Santa Sede, lo scontro tra Bertone e Bagnasco. Ora uno si può chiedere, se legge questo retroscena, che ci azzecca tutto questo con la politica italiana o con il Vaticano, che secondo Repubblica tramerebbe per far cadere o far fallire un'ipotesi di coalizione. Benvenuti in Italia, ecco, lo dico magari a degli stranieri che si interrogano e dicono: ma come mai si dovrebbe occupare qualcuno in Vaticano di far fallire qualcosa in Italia? In ogni caso, questa è la notizia politica del giorno alla vigilia di primarie del Partito Democratico, del centro-sinistra, del primario del centro-sinistra. Con noi avremo ospiti due esponenti del Partito Democratico alle 8.30, un bersaniano e un renziano. I sondaggi dicono che Bersani sia in testa, se perdo però, ha detto, voto per Matteo Renzi. Beh, dall'altra parte invece le primarie del centrodestra si stanno trasformando in un possibile psicodramma. Ieri allora è arrivata definitivamente il sì. Torna la data originaria, il 16 dicembre, per le primarie del centrodestra, ma basta leggere due titoli di due giornali che sono orientati al centrodestra, dunque Libero e Il Giornale, per capire un po' di cose. Le primarie fattele tu, questo avrebbe detto Berlusconi a Alfano, secondo Libero, articolo a pagina 11. Decisa la data delle consultazioni, ma spuntano addirittura voci su un addio di Silvio. Mi faccio la mia lista, non sto un minuto di più in un partito dove comandano gli ex AN. Il Giornale invece, ad Alberto Signore: Silvio è una furia, che pagliacciata le primarie, si cambi o me ne vado. Ecco, questa è, diciamo, la porta d'ingresso per le primarie del centrodestra. Berlusconi, scrive Il Giornale, è pronto a uscire dal Popolo della Libertà e a lanciare la sua lista. L'accusa ad Alfano è questa: dovevi svecchiare il partito, ma comandano i colonnelli. E dunque c'è stato questo faccia a faccia, pare molto duro anche per Repubblica. Berlusconi: farò la mia lista e strappo sulle primarie. A proposito del centrodestra, c'è questo altro psicodramma dei fedelissimi, o meglio ex fedelissimi, di Silvio Berlusconi, che ora si sono staccati. Fabrizio Roncone fa un articolo, come sempre puntuto e molto interessante, a pagina 6 del Corriere della Sera, riguardo ai pasdaran di Silvio pentiti, che dicono ora viva Monti. Dicevano cose così: l'onorevole Stracquadagno, se vogliono la testa di Berlusconi devono prima passare sul mio corpo. L'onorevole Pecorella: è vero, sono state fatte leggi funzionali a determinati processi di Berlusconi, ma abbiamo agito per consentirgli di continuare a governare. L'onorevole Isabella Bertolini: io sono la prova in carne e ossa che noi non siamo forza gnocca. Rubi: i magistrati si rassegnino, come sempre Berlusconi uscirà a testa alta. Ebbene sì, scrive Roncone, dicevano proprio così. Ora hanno cambiato idea. Sentite Giorgio Stracquadagno. Che c'è? Lo mollate? Se mollate il cavaliere, se la mette su questo piano non parlo. No, però scusi, lei, Stracquadagno, diceva che sarebbero dovuti passare sul suo corpo. E certo che dicevo così, ne ero convinto. Difendevo l'uomo che avrebbe potuto trasformare questo paese. E invece poi la Bertolini dice che a lei ora Berlusconi ricorda Schettino, il comandante della Concordia. Ma dico io, Stracquadagno, che se possibile la situazione è anche peggiore. E poi inizia un fiume in piena. Io Berlusconi lo conosco dal 93, sono andata a rivedermi un po' di filmati, l'ho riascoltato. Sa che le dico? Sono due Berlusconi diversi. Nessuno può dire che siano la stessa persona. L'uomo che oggi chiamano Berlusconi è un animale ferito nell'angolo, deformato dal risentimento, che vede complotti, nemici occulti, un uomo sempre indeciso, insicuro, lui che era celebre per il decisionismo, per il colpo a effetto. Ma chi li ha messi lì? Gli Alfano, Verdini, La Russa, Cicchitto, ce li ha messi lui. Solo lui non ha voglia di reagire, sta chiuso nel suo bunker, non reagisce. Una pena, mi creda. Così Giorgio Stracquadagno, il 23 novembre 2012, parlò di Silvio Berlusconi. Oggi sul Sole 24 Ore è l'apertura, e trovate poi a pagina 2 e 3 tutti i dettagli, non è che li posso riepilogare perché sono tanti, ma ve lo segnalo perché sulla legge di stabilità c'è un servizio molto molto accurato per capire che cosa cambia. C'è stato il primo giro di boa, la Camera ha approvato la legge di stabilità che ora passa al Senato, sono tantissime le novità: il congelamento del taglio IRPEF, l'aumento della sola aliquota ordinaria IVA, la cancellazione della retroattività delle strette sulle detrazioni fiscali. Tutti questi dettagli li trovate poi appunto a pagina 2, 3 sulla scuola, le amministrazioni centrali, sugli esodati, che è scattata la salvaguardia per altre 10.000 unità. Insomma, tutto questo lo trovate, i soldi per le infrastrutture, a pagina 2 e 3, sono tanti provvedimenti, sono da studiare uno a uno se volete, li trovate sul Sole 24 Ore. La cronaca invece fa registrare domani, per domani, nuove manifestazioni per le quali si teme che possano crearsi situazioni simili a quelle che si sono venute a creare qualche giorno fa a Roma. C'è il mondo della scuola, molti licei, molte strutture scolastiche sono occupate in tutta Italia e il ministro Cancellieri, il ministro dell'Interno, è preoccupata. In un'intervista alla Stampa, Guido Ruotolo dice che c'è alto rischio di violenze. Per gli scontri di piazza serve l'arresto differito. È una misura che aveva tirato fuori Maroni, da ministro dell'Interno, cioè la possibilità di arrestare, anche visionando i filmati, entro un lasso di tempo, credo 48 ore, anche dopo gli eventi. Per cui uno visualizza le immagini e, se identifica delle persone, fa un arresto, un fermo differito, cioè non sul campo, ma va a prendere le persone che sono identificate negli scontri. Molto preoccupata, dice a Guido Ruotolo Anna Maria Cancellieri, dico subito che ho parlato di DASPO indifferita. In risposta a un senatore ho inequivocabilmente preso le distanze ravvisando profili dubbi di costituzionalità. I miei collaboratori segnalano che l'introduzione del DASPO, cioè la possibilità di bloccare le manifestazioni sportive con un atto amministrativo per chi viene fermato in scontri di piazza, ma è in contraddizione con l'articolo 17 della Costituzione. Dunque frena un po' su questo la Cancellieri, dice c'è un rischio di incostituzionalità. Invece sugli arresti in differita, il rischio è che intervenendo non salviamo comunque, per esempio, le banche che vengono colpite, gli sportelli che vengono attaccati. C'è una banca, scrive, dice la Cancellieri, in corso Vittorio Emanuele, che puntualmente viene presa di mira dai violenti. Ragazzi col passamontagna, col volto travisato. Lì ci sono le telecamere. Se contemporaneamente sono in grado di individuare i responsabili della devastazione, perché non posso arrestarli il giorno dopo? Si chiede Anna Maria Cancellieri. E dunque ecco qui, Cancellieri apre all'arresto differito, titolano anche gli altri giornali a pagina 15 del Corriere della Sera. Per il Fatto Quotidiano invece il ministro Cancellieri avverte la piazza. Certo, rischio violenze, rischio di tensioni sociali, quello che è successo ieri a Roma forse sarà un episodio singolo, svincolato, connotato da una aggressione volgare, antisemita, assolutamente intollerabile, vale a dire un assalto a un pub dove c'erano i tifosi del Tottenham, che è una squadra di Londra legata alla comunità ebraica, tanto che espongono sempre la stella di Davide in curva i tifosi. E ieri c'è stato un assalto, pare, di tifosi di Roma e Lazio congiunti per questo raid che appunto aveva profili antisemiti. Ebrei, vi ammazziamo. Queste sono state le urla che sono state sentite prima di devastare un pub, assaltare con lanci di pietre, cocci di bottiglia questi tifosi. Giustamente il Messaggero apre su questo: spranghe, coltelli e bastoni in 50 invadono il pub, dopo l'una entra nel locale, aggrediscono i clienti al grido di via gli ebrei, col titolare della birreria che dice hanno pianificato tutto, è stata una vera azione in stile militare per colpire. Beh, davvero davvero impressionante quello che trovate sui giornali. Va bene, ci dobbiamo fermare qui. Ci sarebbero tante altre notizie, ma non c'è spazio. Allora io vi ricordo che ci sentiamo dopo il giornale radio delle 8. Gli ospiti, ci sarà Elio Veltri, che è uno di quelli che prende due vitalizi dalla politica, ma è anche colui che ha fatto l'intervista report dalla quale poi Di Pietro ha avuto vari problemi. Ieri il direttore di TGCOM 24 Mario Giordano, che era nostro ospite alle 6.30, ha detto: ci sono in Italia 200 ex politici o 200 politici, ex deputati ed ex consiglieri regionali che per questo cumulano due vitalizi, e proponeva almeno rinuncino a uno di questi due. Uno dei 200 è Elio Veltri, che saluto, più o meno 200. Buongiorno, buongiorno Veltri. Allora, Veltri, Elio Veltri è stato sindaco a Pavia, è stato consigliere regionale in Lombardia, è stato deputato. Lei effettivamente gode di due vitalizi, è così? Sì. A quanto ammontano? Allora, mi sono andato a documentare, ammontano, uno, i dati forniti da Giordano sono sbagliati, sì. Uno 2.321 euro e un altro, a seconda dei mesi, va da 2.100 a 1.853, facciamo 2.000 euro. Ma netti? Parla del netto questo? Sì, sì. Netto. Certo, del netto. Senta, due vitalizi però non è una cosa strana. Ieri, prima Giordano ci diceva come se uno potesse godere di due vite, il vitalizio, uno una vita ne ha una, ecco. Allora, vorrei dire questo innanzitutto, vorrei sapere quanto guadagna Giordano. Ma ha 30 anni meno di me. Ma questo che c'entra? No, c'entra moltissimo. E vorrei sapere cosa ha fatto per questo paese. La mia vita è questa. Mm. Mi sono laureato a Pavia con 110 lodi in medicina. Sì. Ho fatto 6 anni l'assistente volontario, ho lavorato gratis perché non mi pagavano, non perché lo volessi fare. Beh, questo come tanti medici che poi hanno fatto una professione. Dovrei chiedere i soldi allo Stato. Ho fatto il sindaco di Pavia a 300.000 lire al mese. Sì. E poi come consigliere regionale e una legislatura parlamentare sono stato pagato. Ma la cosa grave, per quanto mi riguarda, è tutta colpa mia, perché se avessi immaginato che solo una persona poteva sollevare una questione del genere, dopo tanti anni, è questa. Io, quando sono diventato sindaco, ero pronto per andare a fare il primario, avevo 35 anni. Ha sbagliato. Doveva fare quello. Ero laureato con la LODA, avevo 3 specialità, medicina interna, cardiologia, ematologia, ed ero il professor Veltri, libero docente. Ho rinunciato alla mia professione. Ho capito, Veltri, però nessuno l'ha obbligata a scegliere la politica. Infatti, ho sbagliato. Ha sbagliato. Però le voglio dire anche una cosa. Io sono d'accordo di stabilire anche un tetto a tutte le pensioni italiane. Sì. Anche 2.000 euro per tutti. Però deve valere per tutti. Anche per Mario Giordano. Però anche guardi, per Mario Giordano, ha un, adesso che non è qui peraltro, quindi non rispondo io per lui. Ma però ieri non c'ero neanch'io. No, era alle 6.30, ma guardi che gliel'ha chiesto anche un altro, noi abbiamo registrato Alfredo Vito, che è un altro dei 200, e ha detto la stessa cosa: ci dica quanto guadagni Giordano. Ma Giordano ha un rapporto privato con il suo editore. Non significa, adesso le dico una cosa che non riguarda personalmente. No, però le spiego, Giordano ha detto: ma guardate che non è tanto quanto guadagno io, cioè se Veltri scrive per esempio dei libri e guadagna 1 milione di euro, beato lui, ma il concetto è che due vitalizi... No, io ho scritto un libro, ho guadagnato tanto, ma l'editore e l'odore dei soldi non mi ha pagato. Vabbè, questa è una vicenda diversa, però lo so. Non contesta il fatto di fare un contratto e guadagnare dei soldi, contesta il fatto che lo Stato possa pagare a una persona due vitalizi. A proposito dello Stato, mi faccia dire... Sì. Io ho pubblicato quest'anno il libro I soldi dei partiti, a parte che quando ero deputato ho cercato anche di intervenire con una proposta di legge sui vitalizi e non, i funzionari della Camera mi hanno trattato come se fossi il demonio e poi non è stata discussa, ma in questo libro I soldi dei partiti, che è ancora nelle librerie, ho fatto l'elenco e la somma dei soldi che hanno avuto i giornali, finti giornali. È vero. No, mi faccia dire la cifra. Libero, che per avere i soldi si è inventato Libero, Opinione Nuova, Movimento Monarchico, Angelucci, per avere i soldi. È il giornale su cui scrive Giordano. Sì, sì, certo, sì, certo. Lo sa quanto ha avuto? Quanto ha avuto? 24 milioni. Va bene, no? Però non mi faccia la guerra col Libero che non è qui a rispondere. Io le chiedo di lei. No, sì. Vabbè, ma questo stipendio di Giordano, sì, ci sono anche questi soldi. I finanziamenti, però risponda invece per lei. 25 milioni di euro. Va bene, l'ha detto Veltri, ma glielo chiedo, non è almeno quantomeno una stranezza godere di due vitalizi, due, non uno, ma due. Io le ripeto, se fanno una legge che dice togliamoli, ne rimane uno solo, non faccio neanche ricorso. E comunque continuo a fare a spese mie quello che ho fatto prima, continuo a girare l'Italia, quello che ho fatto per questo paese rimane, ho fatto il mio dovere come uomo pubblico. La settimana scorsa sono andato in Puglia a presentare 3 leggi di iniziativa popolare, ho speso 500 euro mie, perché mi invitano associazioni e gruppi, cioè che mie non, nel senso, che però non hanno i soldi. Mie, però dice, però gode di circa 4.000 euro netti, sì, al mese. Ma ecco, scusi. Tra l'altro, mi scusi, non c'è un molto rapporto tra i contributi che ha versato, perché lei ha fatto una legislatura come consigliere e una. Ne ho fatte due come consigliere regionale e una come parlamentare. Cioè, non è che c'è molto rapporto proporzionale, no, tra ciò no, che uno versa. Io sono, hanno cambiato adesso e c'è infatti il metodo contributivo. Adesso. E sono d'accordo. Se si vuole togliere per il passato, le ripeto, è una legge dello Stato, io non faccio neanche ricorso, allora facciamo così, se li tolgono io non faccio ricorso, al Libero fanno restituire 25 milioni allo Stato e lo diamo agli esodati e così pari e diciamo patta, pari e patta. Senta, le devo chiedere questo, lei è uno degli autori dell'intervista che nell'inchiesta di Report ha veramente terremotato l'Italia dei Valori, lei con Di Pietro ha avuto prima dei rapporti, poi è finita malissimo, come si sente ad aver fatto questa intervista che forse davvero ha segnato una pagina che si svolta, che si chiude per l'Italia dei Valori? E che succede? È caduta la linea. Che è? Non vuole parlare di questa cosa? No, voglio sperare di no. Vediamo un po', proviamo a richiamarlo. Elio Veltri, ricordiamo, ex sindaco di Pavia. Che c'è? Non vuole parlare di questa cosa? Non lo so, magari no. È caduta la linea. Ecco, la rimettiamo in diretta. Elio Veltri, eccoci qua. Sì, è caduta la linea. Dico, che sensazione prova a aver fatto questa intervista che per Report ha portato quasi alla chiusura dell'Italia dei Valori, insomma. Io sono uscito dall'Italia dei Valori, sì, nel 2001. Me ne vado sempre 11 anni prima. Me ne sono andato nell'81 dal Partito Socialista, sì, con un dolore enorme, perché mio padre era iscritto al Partito d'Azione e poi è confluito nel Partito Socialista, è una storia familiare, e poi poi è successo a Mani Pulite dopo 11 anni. Adesso me ne sono andato nel 2001 dall'Italia dei Valori, che lei sa ho fondato, me ne sono andato da vicepresidente con una delega davanti al notaio, potevo fare il deputato a vita, me ne sono andato e non sapevo quasi niente di quello che ho saputo dopo, perché me ne sono andato perché non mi piaceva le persone che arrivavano e non mi piacevano neanche i comportamenti politici di Di Pietro. Ma che effetto le fa sapere che dopo quell'intervista, dopo quell'inchiesta, insomma, Di Pietro stesso ha detto l'Italia dei Valori è morta, va bene così, è morta. Va bene così, perché quando si fa una politica come l'ha fatta l'Italia dei Valori, quando sono in discussione i 100 milioni di finanziamento pubblico, e quando succede tutto quello che Report, con una documentazione ineccepibile, ha detto agli italiani, io credo che la giusta punizione sia quella. Quindi ho fatto 11 anni di battaglie io. Senta, invece per concludere, allora, questo vitalizio, questi due vitalizi se li tiene finché una legge no, dello Stato non può far niente. Niente. Certo. Non posso fare niente, è obbligato a incassarli. Sono disponibile alla mia età a vivere con gli stesse quantità di denaro che ha Giordano. Ah vabbè, ma lei la mette con una battaglia personale. No, questo è fondamentale. Ma non è che ci deve essere, ma non è che ci deve essere il comunismo che tutti devono guadagnare, infatti, allo stesso modo. Infatti lui vuole comportarsi per gli altri come i Khmer Rossi, ma io ci sto, faccio decidere a lui. Io gli dico, io innanzitutto sono amareggiato per questa ragione. Sì. Io e Giordano abbiamo presentato i nostri libri al Salone di Ma lui ha dato solo una notizia, ci sono 200 persone che guadagnano due vitalizi. Noi abbiamo presentato i nostri libri al Salone di Torino. Se lui l'avesse sollevata lì invece mi faceva dei grandi sorrisi, io avrei risposto di fronte ad una sala piena. Sì. E comunque, se c'è, se dobbiamo sacrificarci tutti per questo paese e vogliamo tagliare anche retroattivamente le pensioni e i guadagni, io non faccio neanche ricorso. Lei non fa ricorso. Lei sa che questi sono diritti acquisiti. Appunto, ma evito questa parola. Evita questa parola. Sì, perché non faccio neanche ricorso. No, ho capito, però voglio dire, Veltri, non è che è una notizia falsa. Cioè, avesse detto una notizia falsa, ha dato una notizia, cioè di uno che gode di uno. Chi lo dice che è falsa? Secondo lei i 25 milioni che ha preso il suo giornale è una notizia falsa? Il suo giornale, cioè Libero di Mario Giordano? No, ma perché? Ma si renda conto che cosa vuol dire 25 milioni? Comunque, vabbè, che dire? Io neanche nell'altra vita riesco ad avere 25 milioni. Però questa idea che tutti devono guadagnare la stessa cosa è sbagliata. Insomma. Non è che deve dire anche Giordano deve guadagnare tanto quanto me. Ma perché? Se lui ha un contratto un che momento. Guadagna di più, complimenti. Io dico che secondo lei chi può dimostrare di aver dedicato la vita nella vita pubblica a questo paese? Lei sa che io in 50 anni non sono stato mai sfiorato da qualsiasi diceria. Non ma sì, ma questo non è in dubbio, cioè, nessuno lo mette in dubbio, voglio dire. Ecco, sì. Per questo uno merita due vitalizi, perché ha fatto il politico in maniera onesta e professionale fino in fondo. No, ci devo vivere, ma io dico che sono pronto a sacrificarmi e se con una legge retroattiva che sarebbe bocciata dalla Corte Costituzionale, certo. Lo fanno, io non faccio ricorso. Sì, perché quando cambiano le cose in corsa per i pensionati si può fare, ma se le cambiano per queste cose ma se le cambiano per queste cose è incostituzionale, le altre cose non io penso che sia così. Sì. Ma se lo fanno, lei non fa ricorso. Io no. Va bene, intanto la ringrazio, buona giornata. Grazie Elio Veltri, grazie per essere stato con noi. Un giornalista politico di lungo corso, è vero, ha scritto anche tanti libri d'inchiesta, grande fustigatore di Mani Pulite. Elio Veltri è un personaggio importante nella storia della Repubblica, sicuramente, e gode di due vitalizi, questo è il dato di fatto, ma ce l'ha con Mario Giordano che ha dato la notizia. 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta. Parliamo dunque delle primarie del centro-sinistra. Domenica si vota, 5 candidati. Andrete a votare? Cosa ne pensate? Cosa ne pensate se vince un candidato rispetto a un altro? Noi qui abbiamo ospiti due esponenti del Partito Democratico, diciamo sono due esponenti, un bersaniano e un renziano. Vincenzo De Luca, sindaco di Salerno, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei. Saluto anche Matteo Richetti, che è presidente del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna. Buongiorno e ben ritrovato, presidente Richetti, eccoci qua. Grazie, buongiorno Milan e un saluto al sindaco di Salerno. Allora, qui c'è da capire, insomma, De Luca, intanto i sondaggi danno, l'avrà visto anche ieri lei sul Sole 24 Ore, un 48% a Bersani più o meno e un 37% a Renzi, ma che succederà domenica secondo lei intanto? Faccia un pronostico. Succederà intanto un grande fatto politico per l'Italia. Ci sarà un evento che avvicinerà tanti cittadini di nuovo alle vicende politiche, alle istituzioni, in un momento nel quale abbiamo un'Italia ripiegata e tanta parte dei cittadini italiani profondamente disgustati anche dalle vicende politiche per le immagini di degrado che sono arrivate in questi mesi in tutte le nostre famiglie. Quindi questo sarà un vantaggio per la democrazia italiana. E poi ci sarà una scelta rivolta all'individuazione di un candidato premier per il centro-sinistra, nell'auspicio di un'apertura di nuova stagione politica. Io credo che il governo Monti abbia esaurito la sua funzione, ridato dignità all'Italia, prestigio all'Italia, ma dal punto di vista delle scelte di merito credo che ci sia bisogno di fare molto altro di più. Ora basta. Perché per lei Bersani è l'uomo del futuro per il centro-sinistra? È l'uomo per questa fase politica, non è l'uomo del futuro. È l'uomo che mi pare abbia le doti di equilibrio, di esperienza, anche di capacità amministrativa che servono per dare serenità all'Italia, affidabilità all'Italia, che servono probabilmente soprattutto oggi a mettere in piedi una coalizione, perché come lei sa il governo del paese richiede necessariamente una coalizione, non è come l'elezione per un sindaco o per un comune. Piaccia o meno, senza una coalizione non si riesce a dare un governo all'Italia. Dunque occorre una caratteristica anche unitaria del candidato. Ora parliamoci chiaro, qui dipenderà moltissimo dalla legge elettorale. Se andiamo avanti su questo piano di totale irresponsabilità su cui si stanno muovendo quegli stessi che hanno dato vita al Porcellum, è incredibile. Guarda che qui c'è questa legge, stanno dicendo le cose opposte a quelle che hanno detto qualche anno. C'è una totale inazione sulla legge elettorale. Io su Twitter la metto così un po' ridendo, è finita anche oggi la 93esima, credo, settimana decisiva per la riforma elettorale, ma il presidente del Senato Schifani ha detto che la prossima sarà quella decisiva, ovviamente è sempre quella dopo. In ogni caso, per lei Bersani è l'uomo giusto anche per un uomo che possa fare una coalizione, perché si governa con la coalizione. Questo è già interessante. Matteo Richetti, lei che è un renziano, viene definito Renzi spesso di essere un solista, no? Un uomo in grado magari di prendere in mano le cose ma fare un po' tutto da solo. Perché invece Renzi, secondo lei? Beh, intanto penso che De Luca abbia ragione circa la valutazione sull'appuntamento. Ieri abbiamo superato il 1 milione di persone che si sono già iscritte, quindi che hanno già manifestato la volontà e l'intenzione di andare a votare alle primarie. Se a 48 ore dal voto siamo già oltre il 1 milione, penso che domenica sarà una straordinaria festa di partecipazione e quindi anche, io spero, di rilancio, di riscoperta di credibilità della politica che ne ha drammaticamente bisogno. Penso che Bersani, che io tra l'altro ho votato come segretario nel 2009, a cui riconosco solidità e competenza, non sia l'uomo giusto per questa stagione. A differenza di quanto diceva il sindaco, vedo all'orizzonte come nubi minacciose se sto alle ultime intenzioni di voto. Gli inviti che sono arrivati sono da Diliberto a votare per Bersani, da Di Pietro a votare per Bersani, da Casini a dire speriamo che vinca il primo turno. Da Vendola a dire che è pronto ad avere D'Alema e Bersani nel suo governo. A me più che una coalizione pare, e ce la siamo già sorbettata negli ultimi anni, una mucchiata clamorosa. Cioè lei teme questo, la mucchiatona stile 2006 che poi insomma, non è che basta Milan cambiare i nomi e far diventare Bertinotti Vendola, Franco Marini Casini, Prodi Bersani per cambiare risultato. In matematica, se anche inverti i numeri, ma il risultato è sempre lo stesso. Solo che il tema è cosa si fa. Allora, un Renzi cosa farebbe? Correrebbe da solo? Troverebbe delle forze? Ho letto su un giornale che lei è stato inviato forse a contattare anche Montezemolo da parte di Renzi, è vero? Non ho avuto né questo mandato da Renzi, né la possibilità di parlare con Luca Cordero di Montezemolo, ma per un semplice fatto che se sto a quello che le persone ci hanno risposto in 2 mesi e mezzo, ormai devo dire un po' troppo lunghi, di campagna elettorale, perché siamo davvero anche affaticati, entusiasti, contenti, appassionati, ma io penso che per Renzi il problema delle alleanze sia un po' meno significativo per un solo fatto, che sono pronti elettori che mettono in discussione il loro voto tradizionale al centro, a sinistra, al centro-destra, a gravitare sulla corruzione. Almonti dice una cosa secondo me molto corretta, dice per Renzi è più complicato vincere le primarie che le elezioni vere. Vince le primarie poi ha vinto, perché ha capito De Luca, lo voterebbero anche gente che ora non vota, magari quelli che in Sicilia il 52% non hanno votato o il 48%, i voti di centrodestra, i voti dei delusi, gente che è pronta all'uomo nuovo, dice Richetti. De Luca, secondo lei non l'uomo è nuovo l'ha aggiunto lei Mimmo, no, è l'uomo, l'uomo nuovo della politica, cioè nel senso De Luca, Richetti, Richetti teme che si ritorni alle vecchie ammucchiatone 2006, tutti un po' insieme, che poi non si sa quanta strada possono percorrere insieme. Guardi, la politica virtuale, le previsioni non è che mi appassionino più di tanto, sarei per fare un po' di chiarezza, però non forziamo su questo tema della coalizione. Credo che sia stato fatto appello al voto di elettori di centrodestra, io non mi scandalizzo se esponenti di centrosinistra fanno appello al voto per Bersani, sinceramente, quindi lascerei perdere questo argomento. Il punto vero è un altro: noi abbiamo bisogno di due cose, di una coalizione che non sia un pollaio, che non sia quell'aggregato ignobile che abbiamo visto con l'Unione, nel quale chi rappresentava se stesso aveva un potere di veto, perché dobbiamo governare un grande paese in una situazione di crisi che è e rimane drammatica. Noi in tutta questa effervescenza di primaria abbiamo dimenticato che il fiscal compact ci impone di recuperare decine di miliardi di euro ogni anno per i prossimi 20 anni, quindi saranno lacrime e sangue, e dunque abbiamo bisogno di una coalizione seria, sì, nella quale si decida a maggioranza, e mi pare che questa regola sia stata acquisita da tutti. E chi la può fare questa? Di un programma chiaro, semplice, sì, in grado di intercettare il voto di tanti delusi, di tanti distaccati. Però sindaco, lei a chi guarda quando dice una coalizione seria? A chi? Casini? Vendola? Guardo ovviamente a Vendola, io non la penso come Vendola, ma credo che si possa trovare un punto di equilibrio ragionevole, anche perché dal punto di vista sociale le scelte di questo governo in qualche caso sono indecenti, molto francamente. E poi guardo a un'area di centro, che sia Casini, che sia quello che si sta muovendo nell'area dei tecnici, di forze imprenditoriali, intellettuali, ma vede, non è scontato niente. A me interessa questo, che ci sia una coalizione seria nella quale si accetti la regola della decisione a maggioranza e che ci sia un programma condiviso, poche cose chiare, di rinnovamento radicale, che riguardino il programma, il lavoro, l'economia, il sud, se mi consente, gli enti locali, e che riguardino anche lo stile di governo. Da questo punto di vista io credo che la battaglia di Renzi abbia avuto un valore positivo, ha smosso un po' anche il gruppo. Su questo non c'è dubbio che abbia smosso qualcosa all'interno del partito, e non credo c'è dubbio che dobbiamo fare di più. Io non ho dimenticato che quando si votava l'aumento degli stipendi alla Regione Lazio hanno votato tutti quanti insieme, DS, PD compreso. Quindi c'è bisogno di fare di più e di usare la spada anche all'interno del Partito Democratico. Allora, se ci sono tutte queste condizioni, si può dare vita ad una coalizione. Intanto, andiamo a sentire il traffico, poi ripartiamo da Matteo Richetti, perché non gli ho chiesto invece a lui il giudizio su Monti, perché Monti bis, la possibilità di un Monti bis messo in ghiacciaia, come qualcuno ha detto, da Napolitano, come dire, non si candidi, ma tanto non ne ha bisogno, è senatore già, ma il suo ruolo è lì pronto all'uso. Presidente Richetti, intanto la questione Monti bis, no, è accettabile, non è accettabile da voi? Ma no, non è accettabile, nel senso che penso che siamo tutti, non solo noi, il paese grato a Monti per l'intervento che ha fatto in questi mesi nel tentativo di rimettere in carreggiata l'Italia, in parte riuscito, ma insomma questo paese ha un deficit di politica, anche di cultura politica, oltre che di governo della politica, che va immediatamente ripreso. Quindi tra l'altro del governo Monti, insomma, bene gli interventi, lo ricordava De Luca, insomma, di impegno verso il rigore, di rientro del debito, della riduzione del rapporto tra debito e PIL, ma se azzerare il debito pubblico vuol dire azzerare il fondo per un'autosufficienza, io non ci sto, non siamo d'accordo. Se ridurre il debito e ristrutturare la spesa pubblica vuol dire farlo tutto a carico delle autonomie locali, dei comuni, delle regioni, e far crescere la spesa centrale pubblica dei ministeri, e su questo siete d'accordo. Però, gli impegni con i terremotati a sei mesi non sono ancora stati tutti rispettati, non siamo d'accordo. Però c'è un punto che non mi torna delle cose, perché vede, il sindaco De Luca, anche da chi guarda da lontano, è uno dei sindaci modello del buon governo del Sud, insomma, io non ce lo nascondiamo, e giustamente richiamava ad una coalizione seria che tenesse, che rispettasse gli impegni, ricordava giustamente che il fiscal compact, dove dentro c'è la golden rule, impone la riduzione del debito di un ventesimo l'anno, sono miliardi e miliardi di euro, ma come si fa a fare questo pensando di andare a fare il referendum per l'abrogazione della legge Fornero, pensando di non dire una parola chiara sulla necessità di rilanciare la produttività in questo paese. C'è il programma della sinistra, verso la il programma della sinistra di Vendola, di Ferrero, per dire, di Liberto. Ma io non è che la voglio trascinare, stiamo ragionando tra Renzi e Bersani e rimango su Renzi e Bersani, ma anche il segretario del PD su questo cerca di tenere assieme a volte situazioni che insieme non ci stanno, perché bisogna usare parole di chiarezza, parole di verità. Insomma, noi siamo per smontare quegli elementi di riforma che hanno provato a rimettere in sesto il paese, oppure siamo per continuare su una strada che certo coniuga anche solidarietà, attenzione e soprattutto il tema dell'equità e della giustizia, ma però che si prosegue in quella direzione. Invece mi pare che siamo in piazza col sindacato i giorni pari e con il governo a sostenerlo nei giorni dispari. Cioè, lei non vede questa rottura con i vecchi schemi del passato, non la vede, se non nei propositi. Mi lasci sentire due ascoltatori. Giacomo da Lucca, buongiorno Giacomo. Sì, buongiorno. L'ultima frase che ha detto, i vecchi schemi. Io credo che non ci sia niente di nuovo, e ciò che si sente sono solamente chiacchiere. Credo che, con tutto rispetto per i suoi illustri ospiti e per i candidati a queste nuove elezioni, credo che ci siano del vecchio e dei giovani che usano del vecchio, che lavorano su queste basi qui. Cioè, anche Renzi è vecchio, secondo lei? Anche Renzi è vecchio? No, Renzi è un giovane che secondo me maneggia cose vecchie. Poi, l'ho tradotto io così, cioè si veste da giovane, ma in realtà è vecchio dentro, ecco. Sì, poi volevo solamente dire, poi il senatore, il presidente Monti hanno detto che c'è stato lustro all'Italia. L'Italia credo che sia molto, ma di molto al buio. Ah, va bene, grazie Giacomo. Mariano da Salerno, da città del sindaco De Luca. Mariano, buongiorno. Buongiorno, io precisamente mi chiamo da Cava dei Tirreni, sono il segretario cittadino del Partito Democratico di Cava. A me hanno scritto da Salerno, dica. Conosco molto bene il sindaco De Luca, che stimo molto, però avrei una curiosità: come mai il sindaco che più volte ha definito l'attuale classe dirigente che ha gestito il Partito Democratico negli ultimi anni l'ha definita anime morte, poi ha deciso di appoggiare proprio quella classe dirigente e non chi cerca di innovare di rompere degli schemi. È chiarissimo. Vincenzo De Luca, risponda al segretario Mariano di Cava dei Tirreni. Lei ha definito, effettivamente non ha mai fatto mancare anche delle tenerezze nei confronti della dirigenza del PD, però ora l'appoggia, perché? Sì, no, io non appoggio nel suo insieme la classe dirigente. Ho rilevato che, e lo ripeto, per il 90% è una classe dirigente di anime morte, nel senso che è una classe dirigente totalmente priva di radicamento nei territori e assolutamente incapace di militanza. Sono rilievi che ho fatto, che ripeto e che sarei pronto a fare domani mattina. È assolutamente vitale una battaglia di rinnovamento radicale. Per me il rinnovamento ovviamente non è la carta d'identità, non è il certificato d'anagrafe. Il rinnovamento è rappresentato da queste caratteristiche: essere espressione dei territori, avere capacità di governo e avere capacità di militanza. La gran parte di questo gruppo dirigente è figlio del correntismo e deve essere ampiamente superato. Detto questo, io voglio richiarire sulla coalizione. Allora, vediamo di capirci bene. Non condivido un'immagine, come dire, di ambiguità programmatica di Bersani o del PD. Quando parliamo della vicenda degli esodati, che diciamo? Ha fatto bene il governo o no? Io credo di no. Quando parliamo di Marchionne, condividiamo tutto o no? Io credo di no. Allora, c'è un margine di miglioramento indubbio rispetto a decisioni che sono state prese. Questo è l'ambito nel quale noi ci collochiamo: migliorare in maniera sensibile le cose fatte. Poi, se questo diventa accodamento alle liturgie parasindacali, non sono d'accordo. Lei l'ha già detto, cioè non vuole questi vecchi schemi. Le chiedo direttamente. Non forziamo, perché se si dice Vendola è il sindacato la fioma, siamo in fase preelettorale, però a questo punto non capisco perché si partecipa alle primarie con Vendola. Se si partecipa alle primarie si è teoricamente disponibili anche a collaborare con Vendola. D'altra parte, in Puglia si governa senza sfracelli e senza bolscevichi, a Milano si governa governa a Genova, si governa. Possiamo. Non è il diavolo, no, ma perché? Ecco. Le chiedo questo, siamo in chiusura, vi chiedo la stessa domanda in maniera secca. Lei, Bersani, ha detto che voterebbe Renzi se lui non fosse della partita. Lei, De Luca, chi voterebbe se Bersani non fosse della partita? Bisogna rispettare il voto, io voterei me stesso, francamente. Eh beh, ho capito, ma lei non è candidata, lei non è candidata alle primarie. Sì, un po' di tempo e di fatica da fare. Ho capito, ma tolto Bersani chi voterebbe? Ma non lo so, credo che Renzi abbia un valore positivo, perfino un valore aggiunto in questo momento, ripeto, avendo chiarito cose che non mi convincono in termini... Vabbè, non è convinto, ma voterebbe Renzi. Lei, Richetti, se non ci fosse Renzi, chi voterebbe? Beh, voterei Bersani, però sarei meno ottimista sulla possibilità di far cambiare ad Alino Milan il suo hashtag da rassegnati a speranzosi, ecco, mentre sostenendo Renzi sono più convinto che questo possa avvenire, mettiamola così. Va bene, intanto in bocca al lupo a tutti, mi ha fatto pubblicità anche il mio profilo Twitter, la ringrazio. Matteo Richetti, che è presidente del Consiglio della Regione Emilia-Romagna, e Vincenzo De Luca, sindaco di Salerno. Ci sono le primarie, noi lunedì non siamo in onda perché c'è lo sciopero, devo dire in 10 secondi, volevamo avere come tutti gli altri candidati alle primarie anche Bersani, abbiamo chiesto più volte al portavoce Stefano Di Traglia di invitarlo, domandare è lecito, rispondere è cortesia, non abbiamo ricevuto risposta. A martedì.